Resto ma non riesco. Parlo di qualcosa ma non parlo e contraddico tutto ciò che tocco. Il mondo è un posto grande ma non troppo, che tanto poi mi basta solo un secondo e come nulla fosse ci ritorno. In quel posto tanto atteso quanto una parola se non parlo. E ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'eri prima, con la faccia da bambina. E ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'era prima, con la faccia di chi sta in fila e distratto aspetta il turno, pensando che poi tanto arriva. Occupavi un posto troppo grande e certo adesso è strano non parlarne di quella casa che avevamo in mente, lontano dalla strada in mezzo al verde. E ti ricordi avevi sempre freddo e anche io ma non te l'ho mai ammesso, perché la nostra storia è in queste cose, in ciò che non si dice ma rimane. Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'eri prima, con la faccia da bambina. Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'era prima, con la faccia di chi sta in fila e distratto aspetta il turno, pensando che poi tanto arriva.